Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e quattordici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Oggi abbiamo voluto lanciare 100 secondi prima della puntata. Di cosa ci occuperemo come giornata economico-finanziaria, fisco e imprese? C'è, per alcuni sarà la scoperta dell'acqua calda, ma c'è un rilievo della Corte dei Conti che fa notare come il fisco, uno aggiunge ma va, pesa su imprese e lavoratori in Italia molto più che nel resto d'Europa. Il cuneo fiscale è superiore di 10 punti percentuali alla media europea. Cioè praticamente rispetto a un'azienda, un lavoratore dell'Europa, c'è un carico fiscale di 10 punti percentuali in più rispetto alla media, tant'è che il 49% di quanto versa un'azienda se ne va in contributi e tasse. Il cosiddetto total tax rate, no, lo dico perché da quando conduco questo programma più o meno che abbiamo sentito parlare di riduzione della pressione fiscale su imprese e lavoratori, i dati sono, diciamo, impietosi da questo punto di vista, non si riesce a ottenerla e si è preferito anche negli ultimi anni avere altre misure. Comunque, il total tax rate, il carico fiscale complessivo che grava su un'azienda, vale per il 65% dei profitti, siamo al 25% in più della media europea. Pensate che il total tax ratio complessivo, quindi per tutte le aziende di tutte le dimensioni, ammonta in Italia al 62%, in Francia al 62, in Germania al 49, in Spagna al 49, in Gran Bretagna al 31, negli USA al 44, in Giappone al 49. E di questo parleremo anche a luce di uno studio oggi pubblicato dal Sole 24 Ore. Parleremo in apertura, tra l'altro ci sono anche i dati del Ministero dell'Economia e Finanze sulle entrate fiscali gennaio-febbraio, più 3% a 64,6 miliardi. Per quello che riguarda invece il resto dei temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo dalla borsa, più 0,21% in questo momento Milano, devo dire tra le migliori, oggi le borse sono un po' commosse, ma tra le migliori a livello complessivo, perché Parigi è invariata, Francoforte meno 0,40%, Londra più 0,40%, Dow Jones più 0,70%. Di nuovo realizzi su Fiat, più che altro per i dati americani, forse perché ieri il dato sulle immatricolazioni in Italia era più che positivo per Fiat, meno 1,60%, bene invece Azimut più 4,30%, Case New Holland 3%, Prismian più 2,5%, UniCredit più 2%, Moncler più 1,40%, Terna più 1,20%. Avremo anche il nostro aggiornamento, dacci oggi la nostra TAP quotidiana, perché anche oggi ascolteremo varie dichiarazioni sul blocco. Tra l'altro la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che fissa vincoli urbanistici sui terreni interessati alle spiante degli ulivi colpiti dalla xylella. Perché la Consulta ha bocciato il comma 3 perché prevede che da tali vincoli sia esentata solo la realizzazione di opere pubbliche e non anche di quelle private. Comunque, la norma è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio perché temevano potesse impattare sulla realizzazione del TAP, che è un accordo che abbiamo preso, che abbiamo fatto, e ritorneremo su questo. È un lavoro durato anni, dice giustamente oggi il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Vi arriviamo su questo. Parleremo anche del ticket sanitario perché lo abbiamo anticipato ieri, c'è la proposta del ministro Lorenzin di mettersi d'accordo con le regioni per eliminare 3 miliardi di euro di ticket sanitario, che però è una strada tutta in salita, anche perché è una tassa, diciamo un ticket è deciso in maniera autonoma dalle regioni, quindi è una forma anche di federalismo fiscale, se così vogliamo chiamarla, e tra l'altro vale appunto 3 miliardi, e qui entriamo anche nel tema della manovra vera e propria. Per quello che riguarda invece alcuni mi chiedono, tornerete a parlare del salone? Sì, avremo una piccola, diciamo, iniziativa di racconto dei vari operatori di questo salone del mobile. Oggi una giornata un po' difficile in tutta la città per lo sciopero nella mattinata dei mezzi pubblici. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito con le notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Il Parlamento europeo ha approvato sulla Brexit una risoluzione sul negoziato, sono stati fissati i paletti, il testo è passato a larghissima maggioranza. Juncker ha detto, Presidente della Commissione europea, negozieremo senza ostilità. Però Weber, il capogruppo del PPE al Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha detto la Gran Bretagna si prepari a una posizione forte dell'Unione Europea, non faremo discussioni imposte da populisti e nazionalisti. Anche Barnier, che è il capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit, Barnier ha detto puntiamo ad un accordo non contro ma con la Gran Bretagna, non contro la Gran Bretagna ma con la Gran Bretagna, non cercheremo mai di punire il Regno Unito ma paghino il conto, visto che la Gran Bretagna deve saldare almeno 60 miliardi di euro, su questo non ci sono dubbi, non sono per una ritorsione ma ci mancherebbe, se no deve avere un atteggiamento in qualche modo ostile, ma nemmeno diciamo, i britannici hanno votato e adesso si va a trattare, vi saranno delle conseguenze anche per loro. Poi c'è stato questo battibecco che facciamo sentire in originale, perché il fondatore dell'UKIP, Nigel Farage, quello che ammise poi dopo la Brexit di aver raccontato una marea di balle, lo dico perché lo disse lui stesso, su costi, dati, le famose fake news. Poi l'analisi del voto della Brexit meriterebbe una puntata a parte, nel senso che abbiamo visto anche un voto per il Leave, cioè per uscire dall'Unione Europea, per paura dei flussi migratori in aree del Regno Unito in cui la percentuale di immigrazione era bassissima, se non quasi inesistente, quindi nemmeno a dire che hai avuto esperienze negative con l'immigrazione, è la paura e quant'altro. Comunque Farage interviene oggi all'Europarlamento, dice vi comportate come la mafia, pensate che siamo in ostaggio ma noi siamo liberi, e viene bacchettato dal Presidente del Parlamento Europeo, Tajani. You're behaving like the mafia. You think we're a hostage. We're not. We're free to go. We're free to go. And 85. And this, no, this, now I know, I do understand. Onorevole Farage. I do understand. Onorevole Farage. Onorevole Farage. Io sto garantendo a lei la possibilità di parlare di tutto quello che vuole. Yes. Però quando si parla di mafia, lei dice che un Parlamento si comporta come la mafia, questo per quanto mi riguarda è inaccettabile. Ok, all right. If you're not, no, I do understand, sir, Mr. President, I do understand national sensitivities, I'll change it to gangsters. And that is how we're being treated. Allora andiamo col primo tema, mi riferisco anche ai dati economici e la vicenda del TAP, io la ritengo una cosa assurda e quindi ripeto, faremo la puntata sulle fonti alternative di energia, fermo restando che non c'è un'indicazione al mondo che possono sostituire tutti i fossili, anche perché come vi spiega molto bene Leonardo Maugeri, tra l'altro il prezzo del petrolio, delle estrazioni di petrolio non è destinato a salire, ma detto questo andiamo con ordine. Allora, il ministro Padoan, stanno arrivando segnali incoraggianti sull'economia, si va verso una crescita più robusta. L'anno appena trascorso si è concluso con un quadro positivo. La crescita ha ripreso vigore dalla seconda metà del 2016 e i primi segnali che giungono per l'anno in corso sono molto incoraggianti. Il rapporto deficit-PIL si è chiuso nel 2016 al 2,4%, in linea con le attese e gli obiettivi del governo. Il miglioramento di 0,3 di punto rispetto al 2015. Le misure di consolidamento dei conti pubblici che si sono rese necessarie negli anni della crisi hanno inciso in misura significativa sulla spesa pubblica, il cui andamento ha contribuito però ad evitare che la finanza pubblica andasse fuori controllo. E anche la Corte dei Conti, di cui parleremo tra un attimo, invece, per la, tra virgolette, denuncia della pressione fiscale su chi lavora in Italia e su chi dà lavoro. Anche la Corte dei Conti ha detto sì, la ripresa si sta, è meno fragile, ma il risanamento è faticoso. Andiamo, vedo molti messaggi sul fisco, adesso un attimo ancora di pazienza, andiamo invece al vicenda TAP, non TAP. Allora, intanto nella riunione del governo maggioranza sul DDL concorrenza tenutosi oggi si è trovato un accordo sullo slittamento a giugno 2019 dello stop al mercato tutelato dell'energia e del gas. Allora, in aggiunta, questo per evitare che il superamento del mercato tutelato comporti un aumento delle bollette. Dopodiché il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha detto l'addio al mercato tutelato dell'energia e del gas è una liberalizzazione grandissima che impatta su molte famiglie e su cui non vi deve essere alcun rischio, deve essere fatta con tutte le cautele e il tempo necessario. Poi Calenda è tornato sul tema del decreto antiscorrerie. Se non dovesse entrare nel DDL concorrenza, quello diciamo dopo l'operazione Vivendi su Mediaset, se non entrerà nel DDL concorrenza, lo metteremo in un altro disegno di legge. La soglia che farà scattare l'obbligo informativo aggiuntivo sarà il 10% delle quote societarie e la norma varrà per tutte le società quotate. L'importante, c'è un errore in regia, e adesso andiamo invece al tema della TAP. Calenda dice: noi andiamo avanti con le attività, no ulteriori ritardi. Relativamente alla localizzazione dell'approdo della condotta, sapete il tema che quando si è scoperto che dovevano essere spiantati 221 ulivi per poi essere rimessi lì a Melendugno per mettere da 10 metri sottoterra sto tubo da 90 cm di diametro, è successo il finimondo. E sapete anche, l'abbiamo raccontato molte volte, che quest'opera non è così un qualcosa da sen fuggita, è un'opera che deve portare il gas dall'Azerbaigian in Europa, evitando di dipendere solo dall'approvvigionamento di carattere russo, oltre che nell'Italia algerino. Vi partecipano al 20%, oltre che Snam, Rete Gas, anche faccio l'esempio, c'è anche la Shell, British Petroleum, scusatemi, il gruppo Azero Socar, il 20% c'è la Belga Fluxys, il 16% la spagnola Enagas, il 5% la svizzera Axpo. Abbiamo fatto accordi internazionali, ci abbiamo messo la firma, è stato votato in Parlamento, la faccia, e si vuole bloccare per 220 ulivi. Mi raccontavano ieri alcuni uomini d'affari che hanno incontrato una delegazione azera, che stanno ridendo gli azeri di quello che sta capitando in Italia. Non ci possono credere che per 220 ulivi blocchi un gasdotto che parte dall'Azerbaigian e deve portare, che attraversa l'Italia per un tratto molto piccolo, perché la parte più grossa ce l'ha in Grecia e anche chiaramente... L'Italia sono 8 km, 104 nel Mar Adriatico invece, e invece il gasdotto è di quasi 900 km, 550 in Grecia e 215 in Albania, capacità di 10 miliardi di metri cubi l'anno. Allora, Calenda ha detto andiamo avanti e ha anche chiarito che l'impatto dei costi del gasdotto sulla tariffa di trasporto saranno a carico degli operatori e non degli utenti finali. L'importante è diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento. L'Italia attualmente dipende infatti per il 45% dal gas russo, percentuale che sale al 65% nei picchi invernali. Gran parte delle altre forniture vengono però poi dall'Algeria e dalla Libia, che è ancora un'area instabile. Complessivamente da qui al 2020 scadranno contratti di fornitura a lungo termine per un totale di 35 miliardi di metri cubi di gas, con un deficit potenziale rispetto alla domanda prevista pari a 14 miliardi di metri cubi. Il TAP dovrà garantire questo gap in maniera significativa. Relativamente al metanodotto e al trasporto, il collegamento alla rete nazionale di trasporto, il relativo costo verrà inserito dall'autorità per l'energia nel calcolo della tariffa di trasporto del gas che sarà pagata dalla società che importeranno il gas a zero in Italia. Tutti i costi di trasporto dall'Azerbaigian fino all'Italia saranno pagati dalle società private che importeranno in concorrenza tra loro il gas fino al nostro paese. La diversificazione delle fonti e l'aumento dell'offerta creeranno dunque una spinta concorrenziale che spingerà a ribasso i prezzi per gli utenti finali, le imprese e le famiglie. Il metanodotto TAP è un'infrastruttura strategica e fondamentale per conseguire gli obiettivi di sicurezza energetica, di decarbonizzazione e di competitività dei prezzi. Allora io faccio una domanda a tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni sul TAP: ma uno ha le competenze quando scrive, cioè se noi prendiamo per buona la parola del ministro, non vedo perché no, se mancheranno nei prossimi anni 14 miliardi di metri cubi di approvvigionamento perché vanno a scadenza con i contratti, se arriviamo a dipendere dalla Russia di Putin, ho anche letto il TAP è sbagliato perché l'Azerbaigian non è una democrazia, siamo una follia, lo dicevamo ieri, ma se arriviamo a dipendere durante l'inverno al 65% dal gas di Putin, se questo gas non lo prendiamo solo per noi ma lo rivendiamo, ecco perché ci sono i belgi, gli spagnoli, gli svizzeri e gli inglesi dentro questo consorzio, facendo anche un arbitraggio, quindi andandoci anche, ma tutte queste informazioni, chi protesta per questi 221 ulivi che fanno a balla perché non vogliono il TAP e basta, le ha, ne ha conoscenza, in una regione che si è beccata in questi anni l'Ilva di Taranto e ha due centrali che funzionano a carbone, no, più il resto. Comunque sentiamo, perché uno può dire Padoan, o meglio Calenda pensa solo all'aspetto economico, all'approvvigionamento energetico, un dettaglio in un paese, sentiamo il ministro Galletti che ha detto un lavoro durato anni, ministro all'ambiente, possiamo immaginare che anche lui si sia venduto alle multinazionali del gas, un lavoro durato anni fatto con criterio per un'opera strategica nel paese. Sul progetto TAP c'è stato un lavoro che è durato anni, la valutazione di impatto ambientale, una commissione tecnica scientifica ha sentito tutti i soggetti interessati all'opera. Quello che stiamo attuando è stato scelto come il progetto da un punto di vista ambientale meno impattante, quindi io credo che oggi quell'opera è strategica per il paese e per i problemi ambientali del paese. Stiamo parlando di gas che ci serve per essere più indipendenti dal petrolio e dal carbone, quindi stiamo parlando di obiettivi ambientali, per questo credo che quel progetto oggi debba andare avanti. E più volte abbiamo fatto notare che il metano di tutte le fonti classiche di energia è quella meno inquinante. Ultimo aspetto, perché ripeto, la TAP noi la seguiamo, qualcuno mi dice mamma mia con sta TAP, eh no, perché voglio dire, siccome il gas serve anche a me e serve anche a chi ascolta, e voglio far capire come ragiona sto paese quando tocchi, tutti bravi a dire bisogna fare i piani energetici, bisogna, poi se ti toccano un ulivo da reimpiantare tempo dopo, succede, sono arrivati anche qui i notav a dimostrazione che è tutto un elemento politico, a dimostrazione, come hanno detto vari esponenti politici, che non bisogna fare il gasdotto, basta, bisogna puntare solo al fotovoltaico e all'eolico, così. Ma ascoltiamoci un'altra, il governatore Emiliano, e mi sono permesso di ricordare Emiliano, visto che è candidato alle primarie del PD, che se uno si candida alle primarie del PD è perché vorrebbe guidare il PD e quindi in prospettiva guidare il paese, immaginando che il PD possa vincere le elezioni nelle prospettiva. Mi piacerebbe sapere cosa farebbe Emiliano da Presidente del Consiglio, andrebbe avanti con gli accordi firmati a livello internazionale o si legherebbe ai 220 ulivi, diciamo, della Puglia. Ma il sindaco di Squinzano, perché Emiliano disse è sbagliato Melendugno, c'è un paese che lo vuole, è Squinzano, dove c'è una centrale elettrica, che una centrale che va a carbone. Ora, il sindaco di Squinzano, Cosimo Miccoli, ha chiarito la sua posizione oggi con Alessandro Mina al 24 mattina, dopo che appunto Emiliano ha vendicato il comune delle Cese come uno, insomma, di quelli che quasi ci teneva ad avere il gasdotto. Sentiamo. Noi nel 2013, quando si parlava di TAP e già c'erano le prime iniziative rispetto alla contrarietà della popolazione di Melendugno per quest'opera, noi dicemmo una cosa che per la verità, e questo è un dato che non è emerso in questi giorni, noi dicemmo una cosa che era stata già detta un anno prima dalla provincia in consiglio provinciale, quindi con la rappresentatività di tutto il territorio del Salerno. Noi dicemmo sì, se proprio TAP deve esserci, noi siamo pronti a sacrificare ulteriormente il nostro territorio, inteso come penisola salentina, che ha già dato tanto a questi insediamenti produttivi, però vorremmo che si cominciasse a parlare della decarbonizzazione di Cerano. Sì. E quindi noi eravamo pronti ad essere coloro i quali prestavano il territorio per questo insediamento produttivo per la TAP, ad una condizione: che Cerano venisse riconvertita. E questo se non sbaglio è l'impostazione che Emiliano proprio ha detto, cioè facciamolo lì perché c'è il piano di riconversione di Cerano e quindi la decarbonizzazione. A queste regole, cioè a queste regole di ingaggio, voi lo accettereste? Sì, allora, a queste condizioni sì. Allora, mi fanno notare molti ascoltatori lo stato delle coste pugliesi, se non posso fare un'altra puntata sul TAP delle spiagge libere pugliesi, ma tanto, ripeto, il problema è ideologico, non è semplicemente di dire... ieri c'erano tutti i comuni del Salento a protestare, per cui mi chiedo dove cavolo lo mettiamo. Comunque, oggi per il TAP, con il TAP finiamo, dopo meteo e pubblicità, con Paolo Bricco parliamo invece di quanto ha scoperto la Corte dei Conti, cioè il total tax ratio o ratio, come vogliono, qualcuno vuole che lo pronunci, è in Italia il più alto, dico quasi a livello mondiale, ci batte forse solo la Cina, ma soprattutto il cuneo fiscale, la differenza tra quanto guadagna un dipendente e quanto costa un'azienda, è sicuramente non solo il più alto della media europea, ma 10 punti in più della media europea. Ne parliamo dopo il metro della pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Minuti. Allora, Paolo Bricco, nulla di nuovo, ahimè, perché sappiamo da sempre che il tema del cuneo fiscale. Però la Corte dei Conti dice, attenzione, insomma, voglio rileggere, 10 punti percentuali di pressione fiscale superiore alla media europea, il 49% viene prelevato di uno stipendio a titolo di contributi di imposte. No. E, tra l'altro poi il total tax rate, quindi stimato per un'impresa di medie dimensioni, un carico fiscale complessivo, cioè quello societario, quello contributivo, quello per le tasse, le imposte indirette, che arriva quasi al 65%, 25 punti percentuali in più rispetto a un omologo imprenditore dell'area europea. Quindi siamo e poi va avanti con questa analisi. Posso dire una cosa, che la Corte dei Conti fa bene a dichiarare questo, ma da quanto è che io sento parlare di manovre sul cuneo fiscale che avrebbero come effetto di lasciare qualche euro in più in busta paga al lavoratore? Primo effetto probabilmente in questo momento è anche di reggere, di rendere meno onerosa la busta paga per il datore di lavoro, che magari se ha un lavoratore che ottiene più può anche utilizzare questo come forma di incentivo. E che cosa è stato fatto in questi anni? Beh, ormai è una delle figure mitologiche della politica italiana, ecco, è dal primo governo Prodi che non facciamo altro che sentire le nostre leadership parlare di cuneo fiscale. In qualche maniera c'è stata una specie di divisione nel lavoro, nelle figure retoriche della politica, perché la destra ha sempre puntato, senza mai fare molto, sul mito della flat tax, quella tassazione bassa e continua per tutti e ridotta, che avrebbe dovuto in qualche maniera fare risollevare il paese. E il centrosinistra invece, più lavoristico da questo punto di vista, ha puntato di più sul cuneo fiscale. Ecco, sono circa 25 anni che la Prima Repubblica è caduta e non abbiamo visto purtroppo né l'uno né l'altro. Questo va detto proprio senza polemica, va detto in un contesto in cui la spesa corrente pubblica continua a crescere, e dato che la spesa corrente continua a crescere, il debito continua a crescere, il rapporto deficit su PIL continua a essere fuori controllo, soprattutto dopo l'inizio della grande crisi, da qualche parte i soldi vanno presi, e vanno presi nelle tasche dei cittadini. Cittadini che purtroppo in questi 25 anni di Seconda Repubblica davvero con questo livello di tassazione, flat tax o cuneo fiscale che si voglia agitare, sono davvero più sudditi che non cittadini. Allora, e questo riguarda la storia più o meno recente. Detto questo, noi abbiamo detto in tempi non sospetti, mi riferisco alla prima manovra del governo Renzi, attenzione, bisognerebbe fare una manovra su IRAP e IRPEF, perché poi quando vai a ragionare di cuneo fiscale, di questo poi parli concretamente, si è preferito fare la manovra degli 80 euro, e va bene, adesso si è preferito mantenere la 14esima per i pensionati. Devo dire però che, se ho ben capito, poi lunedì prossimo avremo qualche dettaglio in più, nel DEF il governo dovrebbe far entrare una forma di riduzione di cuneo fiscale almeno per chi ha meno di 35 anni. Sì, questo provvedimento è assolutamente essenziale. Abbiamo visto come il mercato del lavoro in qualche maniera abbia dato segnali di risveglio in maniera abbastanza inaspettata, in attesa negli ultimi tempi per gli over 50. Il grande problema italiano è la generazione perduta, quella che l'Istat indica sotto i 34 anni. Lì i livelli di tassi di disoccupazione sono rilevantissimi, in alcune zone del paese, in particolare il mezzogiorno, sono mostruosi, e ai tassi di disoccupazione si aggiungono le quote rilevanti di ragazzi e ragazze, molto spesso già abbastanza age, perché un ragazzo di 27, 28, 30 anni, 31 è un uomo maturo ormai, che ha smesso di cercare lavoro. Quindi davvero ci sono parti del paese in cui più della metà delle persone che hanno meno di 34 anni o non hanno lavoro o non lo cercano. Allora, vengono un messaggio che mi arriva al 349-238-6666, l'Italia però ha anche il record di evasione fiscale. Infatti oggi Paolo Bricco scrive sul Sole 24 Ore proprio di questo, cioè che beneficio avrebbero le piccole e medie imprese in primo luogo, tu riprendi uno studio della Banca d'Italia, se vi fosse una riduzione dei comportamenti fiscali elusivi ed evasivi. Sì, in qualche maniera la Banca d'Italia rompe uno dei mille tabù. L'assunto è sempre quello, è stato sempre quello che... Io evado però intanto cresco. E invece non è così. L'evasione produce un circolo vizioso che favorisce e incentiva l'imprenditore alla non crescita. L'analisi della Banca d'Italia fa vedere come, in assenza o in riduzione di evasione, il piccolo imprenditore sarebbe spinto a crescere, sarebbe spinto a fare più investimenti e fare più innovazione. Quindi in sostanza, in qualche maniera, siamo davvero in uno dei cuori del problema italiano, che è costituito da scarsa innovatività formale delle piccole imprese, impossibilità delle piccole imprese a crescere e dedizione al nero e dedizione all'evasione della legge, al mancato rispetto della legge. Sì, va detto anche una cosa, Paolo, però questo è sacrosanto, nel senso che tutte le teorie per cui tu riuscivi a crescere di più come paese senza con l'evasione, per questo poi ha dimostrato che hai un problema di crescita vero e proprio, perché più nero fai, lo dico con molta tranquillità, meno meritevole di credito sei ormai con le nuove regole, sì, da anni, per cui le banche non si fidano più nell'erogare credito, ammesso che lo vogliono fare, ma sicuramente non se tu hai dei fatturati non trasparenti. E poi soprattutto il nero chiama nero, anche questo l'abbiamo sempre visto nel corso degli anni, cioè se tu scegli una linea di maggior trasparenza e anche appunto un percorso più lineare, quando inizi con il nero, poi e parlo di nero importante, non parlo semplicemente, cioè, è chiaro che tutto il modello di business tende ad essere più così precario, mettiamola così. E oltre che quello che tu ricordavi, che non è vero che con il nero, con l'evasione, io possa assumere di più, è vero casomai il contrario. Va anche detto però che se il governo volesse fare un'operazione, diciamo, di riappacificazione con il paese, dovresti indicare subito dove vanno questi proventi della lotta all'evasione, nel senso, perché la Corte dei Conti oggi dice attenzione a spendervi nella manovra di finanziaria i proventi della lotta all'evasione, perché già ce li stiamo spendendo per la manovra correttiva. Se io sapessi che, diciamo, tutta la lotta all'evasione va a ridurre il cuneo fiscale, vedessi un beneficio, ok, tu sai, fai i controlli ancora più alti, qui vengo da Rossella Orlandi di oggi, ma nel frattempo c'è un'operazione importante sulle tasse al lavoratore, lasciando buona parte di queste soprattutto al lavoratore, che potrebbe avere lavoratori con maggiore soddisfazione, senza bisogno di rivendicazioni contrattuali e anche con più potere d'acquisto, forse uno sarebbe anche più invogliato a pagarle. L'Orlandi oggi, il direttore d'agenzia Rossella Orlandi, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, abbiamo comunque recuperato 19 miliardi, è un record di recupero dell'evasione fatto l'anno scorso, l'incasso è triplicato in 10 anni dalla lotta all'evasione, sale al 28%. Il 2016 ha rappresentato l'anno in cui l'Agenzia, nello specifico ambito del recupero dell'evasione pregressa, ha ottenuto il maggior risultato mai conseguito dalla sua istituzione, con un gettito di 19 miliardi di euro. La sinergica e coerente attuazione della strategia di promozione della compliance e di contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale prevede anche l'ulteriore implementazione e la gestione di alcune misure innovative, quali la cooperative compliance, il patent box, l'interpello a nuovi investimenti, gli accordi preventivi e le procedure amichevoli, dirette a favorire una maggiore competitività delle imprese domestiche e l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. E poi la voluntary disclosure, quanti soldi sono entrati in chi ha deciso, diciamo, di dichiarare i soldi all'estero, pena poi l'ingresso nel penale invece della mancata dichiarazione, 4 miliardi e 600 milioni. I versamenti diretti, cioè i versamenti che sono stati recuperati direttamente attraverso gli F24, quindi direttamente all'agenzia, sono stati di 13 miliardi e 7, con un incremento del 34% rispetto al 2015. La riscossione coattiva di 4,8 miliardi di euro, un incremento del 9% rispetto all'anno precedente, e i versamenti spontanei a seguito di promozione della compliance, quindi le lettere, sono salite del 67%, quindi le cifre sono assolutamente significative e sono suddivise fra 10 miliardi e mezzo da attività di controllo e da attività di liquidazione circa 8 miliardi e 500 milioni da attività di compliance. Allora, qualcuno mi fa notare, ma perché nella campagna politica non si sente mai parlare della riduzione del cuneo fiscale? Boh, questo è interessante. Io non ho nulla contro il reddito di cittadinanza, ho visto adesso il governo proporre anche un'altra forma di... sugli ammortizzatori sociali abbiamo fatto molte puntate storicamente nei paesi che li hanno usati in maniera molto forte, penso a alcuni paesi anglosassoni, l'Australia, cioè che hanno avuto sussidi di disoccupazione molto forti, importanti. Dopo un po' il rischio distorsivo era alto, cioè che tu riesci a starci dentro con il sussidio sei sempre meno invogliato a cercare lavoro, a darti da fare. Però al di là di questo, penso che una prima operazione dovrebbe essere quella di ridurre il cuneo fiscale, cioè rimetteresti in circolo anche un po' di consumi, qualche spesa in più. Però evidentemente l'argomento non è abbastanza di pancia per venire usato, è molto meglio parlare di altre cose che così colpiscono di più, tanto ormai sappiamo che la politica è una politica, diciamo, emotiva, ahimè, in questo periodo. Grazie Paolo Bricco, andiamo sulla borsa dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Focus Economia. La borsa, dunque, mi spieghi bene, il minor gettito che deriva dalla riduzione del cuneo fiscale non aumenta il deficit. Allora, è chiaro che tutte queste misure sono misure che vanno finanziate, però il punto è, finanzi quello o finanzi altre altre misure? Poi c'è la famosa curva di Laffer, però questo non vorrei entrare, ossia più riduce le tasse a un certo punto della curva, più la gente è invogliata non solo a pagarle, ma anche chiaramente a spendere. La curva di Laffer però, superata una certa soglia, si blocca. Ma al di là di questo, avresti il beneficio di riportare probabilmente un po' di consumi in più e quindi creare anche un po' più di PIL nazionale, magari creare anche qualche posto di lavoro. Ripeto, poi uno può dire no, reddito di cittadinanza, oppure come si chiama adesso non mi viene il termine dell'ipotesi avanzata dal governo, ancora più o meno in quella di direzione. Visto che parliamo però di risparmio e di finanze, nel salutare l'onore Micheli di Radio Core sulle 24 ore per il commento di borsa. Buonasera Eleonora. Buonasera. Un minuto ancora, perché da sabato prossimo, quindi, su Plus 24, che è, diciamo, il dorso che sulle 24 ore ha dedicato al risparmio personale, finanza personale, investimenti, parte un'iniziativa dedicata proprio all'educazione finanziaria, tema a cui siamo molto, diciamo, sensibili, e soprattutto Deborah Rosciani con il programma Cuore Denari assieme a Nicoletta Carboni. Vittoriano D'Angelio, di Sole 24 Ore, buonasera. Sì, ciao, ciao. Di che cosa ci sarà in questa educazione finanziaria? Allora, noi di educazione finanziaria ci occupiamo sempre su Plus, però visto i problemi che ci sono stati in questi ultimi mesi, anni, banche risolte, mutui e compagnia bella, daremo ulteriore spazio all'educazione finanziaria. Proprio come il titolo della rubrica, ritorniamo ai fondamentali, ricominciamo proprio a spiegare paro paro cos'è l'azione, cos'è il fondo, cos'è il mutuo. E quindi amplieremo un po', speriamo almeno, di ampliare un po' la platea dei nostri lettori, che sono anche abbastanza specializzati su queste cose, però vorremmo, il desiderio è quello di spiegare anche ad altri i fondamentali della finanza. Tutti i sabati? Sì, tutti i sabati daremo almeno una pagina su questi argomenti e poi speriamo anche uno sviluppo sul web. Allora, in bocca al lupo, lo leggeremo con attenzione. Credi, poi so grazie. Che ne possiamo occuperà anche Deborah Rosciani, appunto. Assolutamente. Per quello che riguarda l'educazione finanziaria, che può fare la radio, è chiaro che è molto più facile e agevole lo strumento cartaceo. La radio ti può però dare così degli spunti. Grazie anche a Vittoriano D'Angelio. E invece, Leonardo Micheli, andiamo sulle borse oggi. Benino, Milano, poi ha mangiato tutti i guadagni, ha chiuso in variata. Parigi meno 0,20, Francoforte meno 0,50, Londra più 0,1, Dow Jones più 0,70%. Parliamo dopo il GR24 di Fiat Chrysler, che nonostante l'immatricolazione ha perso anche oggi meno 1,80%, abbiamo visto un po' di debolezza sulle generali, meno 0,70%, e invece molto bene Azimut più 4,46%, Case New Holland più 2,80%, Prismian più 2,70%, Terna più 1,60%. Dopo il GR24 do una correzione. C'è la proposta del reddito di cittadinanza e quella del governo si chiama il reddito di inclusione, però sempre lì si va a parare. Personalmente ritengo che sia più importante ridurre le tasse in chi il lavoro già ce l'ha per liberare un po' di consumi. Comunque, GR24. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa, già dicevamo degli indici e di una giornata, insomma, dal punto di vista degli indici, debole o invariata. Partiamo dai titoli più interessanti. Azimut più 4,46%, Eleonora Micheli, e poi anche qualche movimento su Telecom. Azimut. Sì, Azimut, diciamo, ha riacceso i riflettori su tutto il risparmio gestito dopo che ha indicato buone, diciamo, guidance, cioè previsioni sui conti del primo trimestre che si è appena chiuso. L'azienda si aspetta infatti di archiviare il primo trimestre con un utile netto tra i 57 e 67 milioni di euro, su ricavi tra i 198 e 215 milioni e una raccolta per oltre 1,7 miliardi. E peraltro sempre oggi anche Banca Mediolanum non ha registrato un progresso dello 0,3%, era il giorno in cui si è tenuta l'assemblea dei soci ed Ennio Doris ha detto che il gruppo farà di tutto per garantire anche quest'anno una cedola di 40 centesimi. Inoltre sono state fornite buone indicazioni anche sulla raccolta di marzo, che dovrebbe essere andata molto bene. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, ha rialzato la testa dopo la frenata di ieri. I titoli hanno chiuso con un progresso dello 0,68% dopo le rassicurazioni dell'amministratore delegato Cattaneo, che appunto ha detto che rimarrà nel gruppo per realizzare un grande progetto, al di là di colui che sarà invece nominato presidente. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere proposto Arnaud de Puyfontaine. Va ricordato che entro domenica 9 aprile dovranno essere presentate le proposte per i membri del CDA e c'è grande attesa per capire se il gruppo francese Vivendi presenterà una lista di maggioranza, ossia con la maggioranza dei membri del Consiglio piuttosto di minoranza. Mm-hmm. Conti oggi anche per Exor, che perde l'1,20%, la controllante del gruppo Fiat. E qui vengo a chi è più calato: Fiat Chrysler meno 1,80, poi FinecoBank meno 1,5 come Campari e Jux, Net-a-Porter e anche Buzzi Unice. Fiat. Sì, per quanto riguarda FCA, appunto, nonostante le immatricolazioni, come accennavi tu, che sono state pubblicate nei giorni scorsi, oggi ha ingranato la retromarcia e peraltro ha trascinato giù Exor meno 1,17%. Exor che quest'oggi ha pubblicato comunque i conti, che hanno visto l'utile del 2016 calare a 588,6 milioni contro i 744 milioni dell'anno precedente. La holding della famiglia Agnelli comunque ha stabilito che la cedola rimarrà costante a 0,35 euro, ma questo non è bastato appunto a dare sostegno alle azioni, che sono andate giù anche sull'effetto appunto di FCA e peraltro di Ferrari, che ha lasciato sul parterre lo 0,9%. Invece hanno fatto molto bene le CNH, che sono salite del 2,8%. Andiamo sui migliori e peggiori: Space 3 meno 13%, Gala meno 9%, Innovatech meno 5,40%, Tods meno 4%. I migliori: Industria e Innovazione più 42%, Invest più 9,80%, Digital Brothers più 9,60% e Damiani più 6,80%. Devo dire che tra i titoli cito anche Leonardo meno 1,20% e Unipol meno 1,1%. Tra chi si è mosso bene: Prismian più 2,70, Terna più 1,60, Moncler più 1,60 ed ST Microelectronics più 1%. Sempre in tema di, diciamo, conti di società quotate, Amazon oggi vale praticamente, continua la sua corsa, vale in 430 miliardi di dollari. La cosa impressionante che vale due volte il colosso dei grandi magazzini americani, che si chiama Walmart. Per cui Amazon, che è, se vogliamo dirla male, ma diciamola così, la Walmart virtuale, vale due volte la vera Walmart, cioè i veri i negozi e i grandi magazzini, i grandi shopping center di Walmart. Solo Apple, Google e Microsoft valgono più di Amazon, che ha superato anche Facebook e Berkshire Hathaway. E invece, per quello che riguarda il mondo della chimica, via libera dell'Unione Europea all'acquisizione da parte del colosso chimico ChemChina del colosso svizzero dell'agrochimica, che si chiama Syngenta. Ha detto però la Vestager, il commissario europeo, che ChemChina dovrà dismettere parti significative del business europeo che ha per arrivare a questa acquisizione, soprattutto nel settore dei pesticidi e dei concimi, perché è importante per agricoltori e consumatori dell'Unione Europea che vi sia concorrenza nel mercato dei pesticidi anche dopo l'acquisizione di Syngenta. Andiamo adesso sul prossimo tema, che riguarda, torniamo alla manovra, o meglio ad alcuni elementi che stanno spuntando nella manovra, e mi riferisco, già ieri l'avevamo annunciato, all'ipotesi avanzata dal ministro Lorenzin di eliminare i ticket sanitari. Grazie intanto a Eleonora Micheli. Allora, Dio Ticket, l'obiettivo è quello di abolire il ticket sanitario e trovare delle forme compensative adeguate per non creare un buco nei conti delle regioni. Oggi era stata convocata la Commissione Salute e la Conferenza delle Regioni, presieduta dal piemontese Antonio Saitta, assieme al ministro Beatrice Lorenzin. Allora, il ticket vale 3 miliardi di gettito annuo, che integralmente alle regioni, sui 113 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale. È una tassa gestita in maniera autonoma dalle regioni, ecco perché alcuni storcono il naso, dicono, ma insomma, dà anche una possibilità di federalismo fiscale. Alla spesa per i ticket si aggiungono però poi altri 40 miliardi di euro che ogni anno gli italiani spendono per ricorrere a prestazioni sanitarie private. Il 6,5% della popolazione comunque rinuncia a prestazioni sanitarie per le difficoltà a pagare il ticket. Il punto è capire come recuperare questi 3 miliardi di euro. Ricordo che ad oggi sono esenti dai ticket su pronto soccorso e prestazioni specialistiche gli anziani che hanno più di 65 anni e un reddito non superiore ai 35 mila euro, i disoccupati, i loro familiari, a carico con un reddito non superiore agli 8.500 euro, i titolari di pensione sociale e i pensionati al minimo oltre i 60 anni, esenti anche i pazienti affetti da determinate patologie. Però per effetto di questi meccanismi di esenzione il ticket incide molto nelle regioni del nord. Faccio un esempio: in Veneto si spendono circa 32 euro a testa, molto poco al sud, ci sono molti più esenti, 8 euro a testa in Sicilia. Allora, Roberto Turno del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, ciao a te e ai tuoi ascoltatori. Roberto, vorrei andare proprio piatto piatto, mi sembra, con una manovra che deve disinnescare le misure di clausole di salvaguardia per e quindi evitare l'aumento dell'IVA e delle accise per 19 miliardi. Poi si vogliono trovare anche i soldi, quindi la copertura per ridurre, se ho ben capito, o portare a zero il contributo, le spese contributive per i neoassunti sotto i 35 anni. Adesso il governo dovrà trovare anche questi 3 miliardi e 400 milioni per la manovra correttiva chiesta dall'Europa. Cioè, da dove spuntano 3 miliardi? Dici benissimo, vai al punto, direi. Non è un caso che l'ipotesi iniziale della ministra Lorenzin, cioè quello di azzerare il ticket, è già stata sostanzialmente scartata dal tavolo oggi con le regioni, dove si dice che entro l'estate si vuole arrivare a una soluzione sul problema ticket per renderli più equi, più compatibili, più uguali, perché ci sono delle differenze enormi. 3 miliardi, come dire, al tavolo di oggi il ministro dell'economia li conosceva, prima o poi apparirà, quindi la cosa diciamo che è scomparsa dai radar. Io penso che oltre al fatto della manovra che sarà dura, pesante, non concederà grandi regali, ci sono davanti le elezioni, poi anche Sebastiano, mi pare una cosa da non scordare, cioè, questa operazione, se la si farà, andrà fatta con massima cautela per cercare di non scontentare troppi. Sì, ecco, sul tema delle revisioni, se ho ben capito, c'è anche l'ipotesi di una revisione delle detrazioni sulle spese per la salute, non più fissa al 19% ma scaglionata per livelli di reddito? Ma anche questa è un'ipotesi che è tutta da individuare, insomma, perché la fattibilità di un'operazione del genere è molto difficile, dato anche il livello di evasione che, come sai, è molto grande e che oggi la Corte dei Conti ha ribadito. Sì. Vorrei ricordare poi che chi evade i ticket in genere sono i grandi evasori fiscali, per parte da lì. Aggiungerei una cosa che è divertente ricordare. Nel 2000, come sai, con la manovra per il 2001, il governo Giuliano Amato, il ministro della Sanità e Veronesi, l'ultimo Veronesi, vennero azzerati i ticket sui farmaci. Che capitò? Capitò che in pochi mesi, in 5 mesi, la spesa per i farmaci salì del 20%, e dopodiché si fece un po' marcia indietro. Cioè, tu dici addirittura un effetto controproducente nel ridurre i ticket, perché spinge a una spesa sanitaria. Sì, pure perché i medici non è che siano poco generosi talvolta, no? No, certo. Ma allora, c'è una riflessione giusta da fare sull'evasione fiscale, ne abbiamo parlato prima in apertura. È chiaro che chi evade il fisco tende a evadere anche altre forme di spesa. Ora, andare a premiare l'evasore, e magari se tu vai a scaglionare le detrazioni sulla spesa e non lo fa in maniera avveduta, rischi di penalizzare molto chi ha un reddito medio-basso e magari ha già un'aliquota alta, perché dichiara tutto, perché è un lavoratore dipendente, perché dichiara tutto, e avvantaggiare ancora di più i furbi e i furbetti, anche perché poi sappiamo che già sulle esenzioni c'è, non so quanto correttamente, una forma di sostegno al sud, possiamo dirlo questo, nel senso che le esenzioni al sud sono talmente alte che la media praticamente di ticket paga, ricordavo prima, tra gli 8 e 12 euro, quasi un terzo di quanto non si paghi al nord. Giustissimo, perché questa operazione rischierebbe di tradursi in un danno con quelli sono tenuti, poi Sebastiano. Un danno perché le tasse le paga, perché, ripeto, dipendente o perché è una persona onesta, e laddove gli accertamenti fiscali sono più forti. E anche qui, fuori da ogni retorica o perbenismo o buonismo, sappiamo benissimo che il lavoro sommerso colpisce anche e soprattutto le regioni del nostro mezzogiorno, non solo, ci sono anche gli evasori al nord, ci mancherebbe, però attenzione, andate a vedere tutte le volte che c'è la capacità di riscossione degli enti locali al sud rispetto al nord, e ne abbiamo parlato anche molte volte. Grazie intanto a Roberto Turno, vedremo, mi sembra che il progetto da Lorenzin, se mancava l'interlocutore inteso come ministro dell'economia, sia, diciamo, ancora scritto, ma non dico scritto sull'acqua, ma assomigli più a un desiderata che a un progetto vero e proprio. Staremo a vedere se lo porterà poi invece in documento nel DEF e lo porterà nella manovra. Intanto grazie Roberto Turno, andiamo sul traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, devo dare alcune precisazioni. Prima parlavamo del cuneo fiscale, dei dati della Corte dei Conti impietosi su quanto sia il carico fiscale in busta paga per il lavoratore italiano rispetto al resto d'Europa, e abbiamo citato en passant le altre proposte, perché facevano notare alcuni ascoltatori che il tema del cuneo fiscale è scomparso dall'orizzonte politico della, diciamo così, sia nel PD che nel centrodestra che nei grillini, e lì si preferiscono altre formule, secondo me perché hanno un impatto emotivo più forte. Bisogna vedere se l'impatto economico sarebbe altrettanto forte. E citavamo il reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza. Sono due cose molto diverse, lo dico a chi mi ha scritto. È chiaro che il reddito di inclusione è quello a cui punta il governo, e quindi dare un sostegno alle 400.000 famiglie sotto la soglia di povertà, e dovrebbe riguardare una cifra intorno ai 480 euro. Il reddito di cittadinanza è un principio completamente diverso, è della proposta del Movimento 5 Stelle, e dice in sostanza deve avere un reddito minimo qualunque lavoro tu faccia, la spiego male ma per capirci, una soglia fissata in 780 euro, per cui il reddito di cittadinanza andrebbe a integrare, poniamo che tu dovessi guadagnare 500 euro o dovessi guadagnare 100 euro o 0 euro, andrebbe a integrare la parte mancante, dal 100% alla differenza mancante, con un costo molto diverso, perché stiamo in un costo stimato di copertura, adesso qui le cifre vanno dai 12 ai 15 miliardi di euro. Ora tutto si può fare nella vita. Qualcuno mi dice, ma forse i consumi verrebbero liberati di più se venisse dato il reddito di cittadinanza o reddito di inclusione di chi non riesce neanche ad arrivare a fine mese. Sì, attenzione anche al costo del lavoro, che rende questo paese poco competitivo o poco interessante assumere in molti casi, quando tutto il costo del lavoro non è, o non tutto, ma il 48% è a carico, sono tasse e contributi, non è un costo del lavoro effettivo, cioè quello che lavora il lavoratore e devi dare al lavoratore. Per cui insomma, su questo io personalmente ritengo che sarebbe più facile operare intanto sul cuneo fiscale. Ma andiamo all'ultimo tema. Vorremmo dare anche oggi un racconto, in una giornata molto difficile, di un'economia, di alcuni settori economici, lo facciamo sempre, che vanno bene. Siccome sono le giornate, ieri ne abbiamo parlato, del Salone della Moda, di un settore che genera, da solo l'Italia produce il 30% di tutto l'export nell'arredamento a livello europeo, e non è un caso, sono 15 miliardi e mezzo di euro, il 40% dei ricavi del settore legno arredo, che lo ricordo vuol dire 80.000 imprese in Italia, 320.000 dipendenti e 41 miliardi di euro di fatturato. Qualcuno mi ha chiesto, ma qual è l'impatto su Milano? Lo dicevamo ieri, sono circa 230 milioni di euro di indotto di questo salone, cioè alberghi con i prezzi stellari che abbiamo raccontato, ristoranti e tutto il resto, 230 milioni di euro, quindi c'è un vantaggio enorme per la città. Oggi una mattina bloccata lo sciopero dei mezzi, la nostra Anna Marino oggi è andata dentro il salone, a cercare di raccontare quali sono le tendenze anche di grandi gruppi che stanno guidando il settore. E nei territori Milano, Monza e Brianza faccio notare che per esempio ormai ci sono 23.000 addetti e oltre 8.000 imprese. Ascoltiamo Giulia Molteni, terza generazione della Molteni, e che vuol dire anche Dada come marchi, sempre al microfono nostro Anna Marino. Direi forse il miglior anno, almeno degli ultimi 10 sicuramente, a cui ho partecipato io attivamente. Quest'anno non c'è Eurocucina, ma nonostante questo vediamo un'affluenza record, tantissimi visitatori anche dai paesi più lontani, architetti ma anche nuovi clienti, developer, una grande attenzione per il mondo residenziale ma anche tante richieste per il mondo contract. Per quanto riguarda la tecnologia, di quanto bisogna dotarsi per riuscire anche a, diciamo, non solo essere artigiani? L'innovazione è fondamentale. Per quanto riguarda il gruppo Molteni, noi siamo assolutamente un gruppo dal DNA industriale, quindi da sempre i macchinari, le tecnologie, la produzione in scala fanno parte del nostro DNA. In particolare adesso, diciamo, con l'avvento della rivoluzione 4.0, le smart factory, stiamo procedendo a inglobare tutto quello che è la tecnologia all'interno anche dei sistemi di produzione, migliorando anche la customer experience e quindi avvalendosi delle tecnologie digitali per migliorare l'esperienza del consumatore. Noi abbiamo un fatturato consolidato di circa 300 milioni di euro, siamo tuttora considerati una media impresa. I nostri, diciamo, obiettivi sono quelli appunto di crescere, esportare questo saper fare che è tipico del made in Brianza. E poi sempre la nostra Anna Marino ha raggiunto anche Norberto Panzeri, che è presidente della sezione design arredo, appunto legno arredo di Asso Lombarda, dove dentro il salone c'è anche Euroluce dedicato appunto all'illuminazione, e lui è anche proprietario della Panzeri Illuminazione. Quest'anno vedo un salone del mobile molto più vivo e attento degli altri anni, c'è un alto contenuto di design che si sviluppa su tutti gli stand. In più abbiamo anche un alto contenuto di tecnologia. Per dirlo in termini sintetici, l'IoT ha una particolare predisposizione quest'anno, per cui viene ben evidenziato in più di uno stand. L'esperienza di mettere in rete gli imprenditori anche qui nel salone, anche per questa iniziativa di Asso Lombarda? È essenziale. Al giorno d'oggi bisogna per forza di cose fare network tra imprese, perché la tecnologia si evolve in continuazione ed è necessario poi dopo che ci sia un coinvolgimento di diversi settori, nel senso, per quanto ci riguarda nel nostro specifico, il design arredo, nel nostro particolare il campo dell'illuminazione, ha bisogno per forza di cose di interconnettersi con la tecnologia. Un'impresa e un intero territorio può sopravvivere nei prossimi decenni soltanto se ha questa nuova features qua in se stessa. Collaborare tutti per avere un risultato che è significativo. Allora, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani parleremo, qualcuno mi sta segnalando, di una società logistica italiana che utilizzava società italiane ma li pagava con soldi rumeni. Sì, ce ne occupiamo domani, non è da classifica, ma ce ne occupiamo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.